Vento Grimaldo, principe di Fantafior, e venti coperto con qual magico fuor d'invare i tempi. Grazie Madonna Laura, dal vise vado vero, mi fai tutto, entro in fondo al tuo pensiero, avessi culla in Genova, anche in Anton, noi flotti di Don Batal, andai, ma tu, anche d'Ocan, per tutti, ma non per me. Vedete qui a tavolo scritto, ancor te ne dia, qui ancor ti trasse ad affrontar la morte. Qua fungi una verginera sul tuo arbeato, e qua condannava il fato, quadrato per la sua fama, la cantatrice errante, ami come sorella, ma Laura come amante. Ami che va in terra, di riveder quel volto, ed or sotto la maschera l'angelo tuo apparve, si riconobbe, oh Giovio, amor t'appare, questa notte egli al tuo gale ostello col gran consiglio arrasterà sul tuo bastone. Io il suo barco era poco, i via.